Quindi se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. Mattino di Alessandro Milan. Quando ti chiami Milan non puoi adattarti a normalità, non puoi volare basso. Italia sì, Italia no. Italia sì, Italia no, Italia boom. La strage impunita. Dai, cos'è che dicevano tutti? Che il terrorismo non cambierà il nostro modo di vivere, no? E meno male che non ce lo cambia, perché ieri hanno blindato Milano e oggi hanno blindato Roma. Quest'anno per Natale blindiamo. Comando sì, comando no, comando omicida. Alaska. Giova, la paura era così evidente che anche Daniela Santanchè, per il timore di attentati, si è presentata camuffata da albero di Natale. Però pare che nella notte l'ISIS abbia rivendicato la scelta del vestito della Santanchè. Infetto sì, infetto no, quintali di plasma. Non siamo gli unici a subire gli effetti della psicosi terrorismo, perché in Francia domenica ha trionfato il Front National. Non c'è niente da fare, è sempre così. Quando la gente ha paura corre sempre a destra. È come per la toilette nei locali pubblici. Ti stai cagando addosso, vai in fondo a destra e non sbagli mai. Ce l'ho nella panza, viva il crogiuolo di Pinze, viva il crogiuolo di Pinze. È un giorno speciale. 2 anni fa, esattamente oggi, Matteo Renzi vinceva le primarie del PD. E tu mi direi, vabbè, ma cosa c'è da festeggiare? Cosa c'è da festeggiare? È l'unica volta che Renzi ha vinto delle elezioni. Sarà una data storica o no? Comunque, nel PD hanno già deciso come commemorare l'evento. Alla prossima seduta del Parlamento faranno un minuto di sinistra. Ciao, ciao. Pizza da solo, un totale di 2 pizze, e l'Italia è questa qua. Evviva, evviva, cari italiani, eccoci qui, sono le 6:31 minuti. Il giubileo è iniziato, il Corriere della Sera ce lo racconta nelle prime 10 pagine, ho detto 10 pagine. Italia sì, Italia no. Siamo sempre sobri noi in Italia nel raccontare queste cose. 10 pagine per l'apertura del giubileo, evviva! Mattino, ascolto su Radio 24 Alino. Ebbene sì, cari italiani, le 6:32 minuti, questo è 24 Mattino, eh? C'è Lorenzo Nespoli in redazione, il nostro Peter Bescapè in regia. E, che dire, c'è il numero per i vostri messaggi, è il 349-238-6666, numero anche per i vostri WhatsApp. Milan, grata qui, per in ferie. Sì, ferie, ieri era festività nazionale, ho seguito per relazionare poi sulle successive 10 pagine del Corsera l'apertura del giubileo. Licenziato! Oh, questo sarebbe anche un sogno, così mi dedico ad altro. C'è questa cosa fastidiosa nella vita per cui bisogna lavorare per portare a casa lo stipendio. Va bene, alle 6:33 minuti, dai. Dobbiamo aprire anche il Parlamento, che mentre il Parlamento è in ferie, o c'è questa polemica, non è in ferie, è in ferie, non è in ferie, noi il Parlamento invece no, non si va in ferie. Fino al 24 adesso tiriamo dritti. Vado a prendere un caffè, quindi se mai ci vediamo. 24 dicembre compreso, vigilia di Natale. Va bene? Abbiamo barman generosi. Oh, stasera c'è grande fibrillazione. Lo dico, fibrillazione, perché stasera 24 mattino va anche alla cena di Natale e voi non siete invitati, perché siamo invitati noi. Però se vuole la Paola, la Paola a mezzanotte la radio, se finisce, se smonta dalla radio, ma assolutamente potrei fare non so, una piccola registrazione. Sì. Nell'ora della cena e raggiungi anche un paio d'ore. Adesso. Ma buongiorno, anche un buongiorno. Paio d'ore. Posso dire subito una cosa? Sì, come no? Ma io ne farei anche 12-13 di pagine. Ecco, lo sapevo, video. Ma certo, lo sono sapevo. Sono assolutamente contraria alla tua. No, infatti, ma abbiamo capito sì o no che è una cosa grande, grandiosa per credenti e non credenti. Per favore, sottolineiamo questo. Certo, ma per 10 pagine, e 10 pagine, certo che l'abbiamo capito. Che... Ecco, bravi, anche 11 se serve. Tiriamo avanti, va? E subito buongiorno. La tira d'orecchi della nostra rossa Paola Saluzzi. Come stai, Paoletta? Buongiorno Alino, molto molto molto bene. Non sei andato in vacanza ieri? Ieri era giusto che ci fosse uno speciale, quindi di conseguenza tu non sei, voglio dire, ci sei tutto l'anno. Ma non infatti, ti ammali mai, ma sei sempre presente, sei con noi. Da quanti anni? È da troppi. No, da troppi non si dice, da non troppi, vedo da l'ora. Tanti anni, non per vedo noi l'ora. Una gioia, ma sai, insomma. Sai che ho compiuto 45 anni e no, a 45 anni e a 45 anni inizia la crisi di mezza età. La mia crisi di mezza età è iniziata così, non vedo l'ora di fare altro nella vita. Questo ve lo dico ufficialmente, non vedo l'ora bene, di fare. Devo individuare che cosa? Devo individuare esatto. Che cosa? Però la appena lo individuo. La radio. Appena lo individuo vi saluto tutti, questa è la verità. Cara Paola Saluzzi, allora Sky TG24 pomeriggio come sempre dalle 15 e insieme a noi c'è il direttorone, anche lui è invitato alla cena se vuole. Ah che bello, lui è, per lui è più facile, sta a Milano. È più facile, esatto, milanese. Alino, sì. Ti do una notizia, il tuo datore di lavoro potrebbe non aspettare che tu individui che cos'altro fa. Va bene. Potrebbe dire. Vabbè, se caso... esprimi questi desideri. Sì. Sì. Sono pericolosi. Potrebbe dire. Ma perché nel caso non crei la radio di Vanity Fair e prendi subito Lino a lavorare alla radio di Vanity Fair, ecco, fai direttore? Ecco. Siamo già vedi che già i posti di lavoro si moltiplicano. Sì, il datore di lavoro potrebbe dire: caro Alessandro Milan, ho proprio deciso che devi cambiare vita, effettivamente. Mi piace questa cosa. Sarebbe una sollevazione nazionale. No, va. Assolutamente. Per 2 giorni. Scrivete su Twitter che cosa ne pensate di un mattino senza Lino. Lo sì, vedi che sì, sì. Non si può. Per esempio, ieri che non c'ero, la gente stava benissimo. Entravi nei bar e tutti erano più sereni, più sollevati, più non tranquilli. Vabbè, mentre noi parliamo di queste cose, lo sapete che in America c'è un signore con una una pettinatura dal colore improbabile. Beh, vabbè, la migliore risposta a Donald Trump l'ha data il numero uno di Amazon, Jeff Bezos. Ha detto: dovremmo spedirlo nella stratosfera. Non è male, è spedirlo nella stratosfera. Sì. Allora, Donald Trump, un uomo, una gaffe, oppure sono. Non sono gaffe queste. La risposta a Donald Trump è una domanda: che sì. Cosa si è messo in testa? Cosa si è messo e in non testa? È solo e non i capelli. Ecco, a quello che appare. Proprio veramente. Basta, vado a parlare con Bill Gates, va bene, ti chiami Trump, sì, siamo sì, d'accordo, sì. Ma questo, come dire, è un tuo problema, Ma così arrivi, cancelliamo internet, i musulmani non devono pensare in America. Sì, ma, sì. Cioè, la risposta di Donald Trump è proprio questa: i musulmani non entrino più in America e chiudiamo internet in alcune zone del mondo dove si fa proselitismo. Sentilo, sentitelo, se ve lo facciamo anche sentire. What's Donald American J. boy? Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States until our country's representatives can figure out what the hell is going on. Cioè, chiudiamo tutto finché non capiamo what the hell is going on. Hai capito? Ma what the hell is going on? Yes. Capito, Lucadini? Ma, Però la tragedia è che questo signore sta prendendo preferenze e rischia di prendere voti, quindi purtroppo, cioè, se guardiamo a quello che è successo in Francia, non voglio fare paragoni. Ma ci sono questi paragoni, molti dicono abbiamo anche noi. Le personalità sono molto diverse, però anche i due paesi sono molto diversi. Chiaro. Ci sono molti americani che non sono Bezos, se non sono quelli che leggono il New York Times, se non sono quelli che amiamo frequentare noi, che in realtà la pensano come lui. Mm. Anche, devo dire, colpevole una troppo lunga era di correttezza politica, per cui non si possono dire le cose, c'è un po' di esasperazione, onestamente. E quindi purtroppo questo signore sa esattamente quello che dice, perché parla esattamente alla pancia delle persone. Esatto. Poi, no, infatti, non sono gaffe, cioè, come oggi analizzano vari giornali, c'è la possibilità concreta che in questo modo, siccome l'ultradestra è molto molto radicata e compatta negli Stati Uniti, che poi i voti aumentino. Le preferenze nei sondaggi. Sì, la tragedia è che sa quello che dice. Il vero problema, la vera malattia di questa situazione è che questo soggetto sa che cosa sta dicendo. Sì, sì. E lo dice, certo. Non è un gioco di parole. Cioè, sì, la sensazione però è che anche tutti gli altri candidati repubblicani abbiano preso le distanze, la sensazione che poi ci siano tali anticorpi che una persona che dice queste cose non credo che poi possa aspirarla, vero? No? Dici sì. Nella storia sono successe cose peggiori. Quindi Direttore, la fotografia del Merry Christmas con tutta la famiglia della serie, mazza quanto siete brutti, cioè veramente quanto detto alla romana, con la maglietta rossa e il mitra, tutti schierati, ragazzino incluso, con le pistole, con i pacchi di Natale alle spalle. Ma ti pare che però vedi, non è che può puntare alla Casa Bianca una persona così, come anche quella che assolutamente che è citato. Sì, invece sì, dici che potrebbe Donald Trump che no, dice l'unica allora lui secondo me la nomination ce l'ha, la puoi avere, perché per quanto ai repubblicani questo non piaccia, se poi i voti li prende c'è poco da fare. Quello che poi è molto più difficile, per fortuna, è che un signore simile possa essere eletto. Possa essere eletto, perché per essere eletto non devi prendere solo i voti tuoi, devi convincere anche qualche indeciso, lì la vedo più di prima. Devi convincere anche qualche indeciso, poi ci sono situazioni per le quali Al Gore sta ancora contando i voti che sono improvvisamente evaporati e ci hanno portato un altro tipo di presidente, e poi sappiamo come si è andata a finire. Cioè, il rischio diventa altissimo, purtroppo, ripeto, il rischio è altissimo. Poi siano gli anticorpi a questo mondo, è una realtà. Credo di sì. Ecco, però, insomma, pur tuttavia, questo qui parla, cioè, perché il presidente Obama ha appena detto che ci sono i terroristi e c'è l'Islam, sì. Cioè, ci sono i terroristi, ci sono i criminali e poi c'è gente che vive secondo un'altra religione, e tu rispondi così? Mamma mia. Certo. Effettivamente ma devo dire che tutto il mondo ha reagito in maniera molto molto dura. Come è stato fatto giustamente notare, questa signora ha fatto fior di affari con ricchissimi musulmani, quindi è una provocazione totalmente ipocrita. Sì, sì, tra l'altro la maggior parte dell'opinione pubblica non legge quei giornali. È quello. Vabbè, diciamo è che quello. Visto che Jeff Bezos ha lanciato il razzo sperimentale Blue Origin e ha detto gli lascio un posto, spediamolo nella stratosfera. Potrebbe essere nella la soluzione quella di, del leader di Amazon. Una delle risposte. Beh, allora, dice Beppe Severmini ai nostri microfoni: che cosa succede se leggono la peli in cambio pianeta? Secondo Flemma inglese, lui dice nel caso, parlo di se stesso, cambio pianeta, se leggono Sarah Palin, cambio pianeta. Va bene, in mezzo a tutti non ci lasciare, stai con noi, c'è una persona che mi riprende molto per la mia introduzione, ha detto non ti permette di parlare di lavorare per quel che riguarda il tuo non lavoro a questo punto, non usare la parola lavorare, e anche questo effettivamente è abbastanza condivisibile. Allora, cari amici, andate alla Leopolda, Luca Dini, non vai alla Leopolda tu venerdì, mamma mia. Non credo. No, non sei stato invitato. E come mai? E perché sei stato escluso così? Ma che si faccia all'Aeropolda? non lo so. Tu, Paoletta, ci vai all'Aeropolda? La seguiremo. Vabbè, io personalmente non ci vado, ma la seguiremo. Vabbè, niente, abbiamo due esclusi da Renzi. Ecco, subito. Va bene. No, ma non volevo parlare di questo, volevo parlare di questa cosa. Ecco, a me ha colpito molto. Non so se avete seguito la questione delle banche, è una un po' complicata, tutta la vicenda che affronteremo anche alle 8:15. In pratica ci sono tutti quelli che hanno sottoscritto delle obbligazioni ad alto rischio, quindi ad alto rendimento, e che verranno in qualche modo risarciti per queste banche che sono state salvate. Ora, io capisco tutto, ma sapete che mi fa molto ridere quando il ministro Padoan dice è un intervento umanitario? Cioè sarà un intervento, non c'entra nulla con i contratti che sono stati firmati con le banche, ma sarà un intervento umanitario. Ma cosa vuol dire umanitario? Cioè è un modo per evitare le multe dell'Unione Europea, mi sembra di capire. Sarà un intervento umanitario, cosa significa? Cioè io, per carità, la vicenda è complessa e ognuno ha firmato un contratto diverso, ma sinceramente se uno firma un contratto ad alto rischio con una banca, sarà poi libero anche di perdere dei soldi? Sì, forse perché c'è gente che ne ha investito, diciamo, non sono investitori miliardari, c'è gente che ha investito davvero i... E ho capito, ma lo sai quanti ci hanno chiamato a dire io che non ho fatto questi contratti perché mi accontentavo dell'1,25, 1,50% che mi dava tenendo i soldi sul conto? Non ho perso perché mi sono accontentato di poco. Ma adesso quelli che hanno perso, non lo so, siamo proprio allo zero, però cioè lì siamo di fronte ad una banca salvata e allo zero carbonella di chi ha investito, quindi forse ho capito, credo. Però ha investito in cose, ripeto, rischiose, ma penso che insomma sì, ma non è chiaramente, poi chi conosce le realtà locali non è così semplice, ci sono persone che si sono fidate. Io trovo che anche il decreto, insomma, cioè sia una soluzione un po' molto discutibile. Adesso si cerca di salvare un po' la faccia, però insomma non è una pagina felice. Non è una pagina felice, però è dibattuta anche la questione, cioè perché molti hanno voluto firmare delle cose sulle quali c'erano degli altri rendimenti, ma anche degli altri rischi, o può succedere di perdere dei soldi quando uno firma. Certo, poi c'è la questione, ma sono stato ingannato dallo sportellista, da quello che mi ha prospettato il basso rischio. Oh ragazzi, però quando si mette una firma, pensarci 500 volte, Intanto dobbiamo andare al traffico, aspetta, dobbiamo andare al traffico, poi entriamo. Manda il traffico, traffico, traffico, traffico. Stazioni di servizio Costantin, se ti fermi ti conviene. Vi presenta... Caro Alino, tenere per il Milan è come comprare un bue sperando che ti renda gravido le tue 30 mucche che tu hai nella stalla per farti una mandria dei vitellini. Hai la stessa possibilità di chance che hai di vincere uno scudetto. Ciao ciao! Una volta c'era la trasmissione Si fa sera, parla padre Girolamo Buonaventura. Adesso c'è la trasmissione È mattino, ascolta su Radio 24 Alino. Milan, non ti sento più strappare il giornale quando leggi la carta costa. I giornali con la carta costa vanno strappati. Ciao Milan, questa te la faccio per la rossa del popolo. Oh mia bella Saluzzina, che ti brilli da Milan, città russa e piscinina, chissà cos'è che te vuole da Milan. Ciao ciao! Oh mia bella Madonna! Vabbè, è meravigliosa questa, meravigliosa. Ora vengo subito a Milano. Questa sì, la dedichiamo alla nostra Rossa. Che bello, grazie. Allora, invece a Roma, ecco, ti faccio arrabbiare, cara Paoletta Saluzzi, sì, ti faccio arrabbiare. Tu e il Giubileo, senti, oggi l'ho visto proprio adesso, Iena, sai che Iena è un po' corrosivo, un po' laico, secondo me anche ateo. Sulla stampa, Iena, Giubileo durerà fino al 20 novembre e l'anno prossimo è pure bisestile, 348 giorni all'alba. Eccolo. Romano. Dai, raccontaci qualcosa del Giubileo. Raccontaci qualcosa del Giubileo di ieri. Che cosa? Ma tu eri lì, no? No, il Giubileo io l'ho seguito in diretta, certo. Perché ieri abbiamo fatto la diretta con, insomma, abbiamo seguito veramente, ovviamente, come si fa, il minuto per minuto. È stato splendido. È stato splendido perché i 50.000 che hanno riempito Piazza San Pietro lo hanno fatto con la volontà di esserci, e quindi questo fatto dei numeri io l'ho letto, ma chiunque insomma l'ha letto anche come un non era insomma, con rispetto, non si doveva riempire uno stadio, non era una finale del mondo. Il Papa è stato il Papa, quindi ha dato il via a un evento che fortunati noi che lo possiamo vivere, lo possiamo sì. criticare, comunque siamo in questo tempo con quest'uomo, con questo Papa, con le parole usate da questo Papa. Dopo la cerimonia di Piazza San Pietro c'è stato l'arrivo nel centro di Roma, insomma, per chi conosce il centro di Roma parliamo... E con la sicurezza com'è andato? Tutto a posto? È andato tutto meravigliosamente bene. Però effettivamente questa cosa diceva anche Crozza come battuta, è interessante, cioè ci dicono non bisogna cambiare vita, non ci faranno modificare le nostre abitudini. Era pieno, Chiaro, però voglio dire, in Spagna era piena. Questo senza dubbio, però siamo e dobbiamo abituarci un po' alle città blindate, non so, è così. Luca, tu eri alla Scala la prima a vedere la Sant'Anchè come era vestita. No, per carità, però ero in realtà lì vicino, sì, sono stato comunque vicino a Piazza della Scala, sì, sono d'accordo con Paola, bisogna restare in giro e non lasciarsi intimorire. Comunque sì. Erano 50.000 secondo la questura. Esatto, perché vuol dire che erano veri. Ma direttore, Luca, il fatto anche di essere più controllati... Purtroppo fa parte di questo tempo, lo facciamo. No, infatti, però dicono non muteranno le nostre vite un pochino, già le hanno mutate, perché certo che le hanno mutate, certo che il Bataclan è accaduto, però ci facciamo controllare di più e continuiamo ad andare allo stadio e continuiamo ad andare al teatro e continuiamo ad andare in piazza e continuiamo a vivere. Ah, su questo non c'è dubbio, no, perché se rinunciassimo a questo, appunto. Cambiate sì, ma intanto continuiamo. Su questo non c'è dubbio. Mentre io sono qui su Vanity Fair, dove ti vedo Fedez, mamma mia, ecco, io tutte le volte che vedo Fedez in prima di copertina penso sempre, quando lo vedo anche in TV penso questa cosa, adesso mi diranno, mamma mia quanto è brutto con tutti questi tatuaggi, ma dai, su, ma è una roba orrenda, va bene i tatuaggi, ma è una roba orrida, no? Crede nel tatuaggio. Il direttore non può dirlo perché adesso in copertina. Non può dire di aver fatto una copertina orrida perché la copertina non è affatto orrida. No, la copertina non è orrida, il soggetto, cioè tutti questi tatuaggi, ma dai. Però piace. Ma sì, ma piace. Sì, piace adesso. Credi nei tatuaggi? Oh, ragazzi. Sì, ho capito. Tutti piace. A tutti trovano qualcuno. Sì, Fedez piace, sì. Ma ho capito, ma gliel'hai. Ha detto quanti tatuaggi ha in questa intervista? No, perfetto, gli abbiamo nemmeno chiesto. Ma non lo sa manco lui. Cioè, come fa a contare? Cioè, ma io non lo so, ma vabbè, insomma, e che tra l'altro, attenzione, all'interno si vede anche seminudo, praticamente c'ha i tatuaggi dal petto in su, cioè giù no. Dal collo in giù. Che deve fare? Cioè, allora, ma la domanda la faccio io, ma Luca Dini e Alessandro Milan, sì. Cosa si farebbero tatuare? Direttore, partiamo da te, tu cosa ti faresti tatuare? Cosa come parte del corpo? No, una scritta.